Una breve presentazione, io mi riallaccio però addirittura. Bisogna accenderlo. Scusate, ma queste cose sono sempre un po' un problema. Mi riallaccio a quanto intelligentemente e anche sentitamente diceva la dottoressa Trevisan, cioè a dire Silvano De Marchi, che io ho il piacere di conoscere da anni, è una persona nel senso vero del termine, che insomma noi sappiamo essere acquisita anche a livello teoretico, insomma, e in forma importante, che poi si parli di persona o individuo. Io ricordo una querelle 2-3 anni fa, terrificante su questo. Io, francamente, sono dei nominalismi, a mio parere, non credo ci si debba accapigliare su una parola, su un lemma, no? Ecco, dicevo, è una persona vera, nel senso che vissuto e il pensato convergono. Cioè a dire, le riflessioni teoriche, vi è stato detto, e lo sapete, Silvano De Marchi è un filosofo, ha una formazione filosofica, si occupa di teosofia, ma diciamo, in forma non certo subordinata, non accidentale, non aggiuntiva, da anni svolge l'attività di poeta e di critico letterario, dove le due cose convergono, e questo è abbastanza raro in realtà. Sì, c'è qualche esempio anche attuale, non vorrei citare nomi di personaggi viventi, perché spesso, e qui veramente è una felicissima eccezione Silvano, spesso in realtà i due livelli tendono a divergere in qualche modo, tendono a andare in qualche modo per conto proprio, o al limite, ecco, sono delle rette parallele, no? Che voi sapete, la definizione geometrica, non si incontrano mai, no? Ecco, e allora no, per fortuna nell'opera di Silvano De Marchi, del professor De Marchi, c'è una convergenza, c'è una creazione che è creazione contemporanea, cioè a dire, il critico è veramente anche il poeta. Noi sappiamo che questo c'è anche nel libro teorico che qui presentiamo del professor De Marchi, a proposito di Jacquerie, o io dico Jacquerie, scusate, ma è un nome di origine francese, di origine, poi accennerò un attimo, dove appunto Jacquerie stesso, Emerico Jacquerie, sostiene che appunto l'attività critica è un'attività poietica, cioè di creazione, no? Dal greco, voi sapete, la poiesis è la creazione, da cui poi anche, ma non solo, poesia. Dicevo, la capacità di essere critici e teorici della poesia e al tempo stesso poeti non è da tutti, perché appunto talora c'è una divaricazione dei discorsi. Io citerei alcuni esempi. Baudelaire, sicuramente nell'Ottocento, ancora Hölderlin, almeno ecco, non tutto Hölderlin, perché poi c'è la parte più strettamente legata al panenteismo, alla creazione filosofica con Schelling e con Hegel, e quello lo lasciamo perdere, ma ci sono delle straordinarie intuizioni, per esempio sulla sinestesia, che ci sono anche in Baudelaire. Più modernamente, e per venire all'Italia, A parte naturalmente alcuni esempi straordinari che sono a cavallo tra 800 e 900, che tutti loro conoscono, Carducci e Pascoli direi in primis, noi abbiamo alcuni esempi di questo, alcuni esempi di questa convergenza, di questa confluenza, diciamo sinestesica tra le due attività, che loro trovano nella cosiddetta generazione dei post-ermetici fiorentini, cioè a dire purtroppo non sono più tra noi, Mario Luzzi, Alessandro Parronchi e Piero Vigongiari, che in questo senso hanno dato un impulso straordinario, straordinario nel senso letterale, no? Extraordinario, cioè hanno dato quello che anche Silvano ci dà, cioè una creazione poetica che è alta come è alta la produzione teorica. Cosa vuol dire la produzione teorica? Vuol dire seguire astrattamente un metodo, come poteva essere la sociologia, la semiotica, prima lo strutturalismo, la semiologia, oggi per esempio il decostruzionismo? No, evidentemente seguire diciamo l'attività critica e portarla avanti in modo serio vuol dire usare, mi rifaccio alle parole di un grandissimo critico che il cui nome mi è difficile da pronunciare per il fatto che capirete, è stato il mio maestro, non c'è più, che era Luigi Baldacci, grandissimo teorico e critico e storico della letteratura, il usare tutti i metodi e non usarne nessuno. Cosa vuol dire? Chiaramente usarli tutti, non usarne nessuno, questa era un po' un'iperbole che Luigi usava, però evidentemente non fissarsi su un metodo, non concentrarsi su un metodo. Questo, ecco, con delle diversificazioni, adesso qui non scendiamo nei dettagli, tutti gli autori che ho citato, compreso però in primis Silvano, non lo fanno, cioè non seguono dogmaticamente un metodo, non vanno, diciamo così, a rimorchio di un metodo. Immaginatevi, per fare delle esemplificazioni, no? Come si potrebbe parlare, diciamo, di Verga per venire all'Italia, o di Zola, che comunque era un francese di origini veneziane, non parlando della situazione storico-sociale, è impossibile, chiaramente, no? O come invece si può prescindere da un approccio linguistico e non dogmaticamente, attenzione, semiologico o strutturalistico, se invece per esempio si analizza la poesia di Breton o si analizza ecco, un testo poetico che evidentemente ci richiama a quello che qui tra l'altro Silvano ne parla nel libro, è l'approccio che deriva da Leo Spitz, cioè l'approccio cosiddetto formalistico. Io mi ricordo ancora fine anni 70 una vigorosissima, io non facevo il dance, però talora dovendo preparare storia della musica avevo seguito Rognoni a Bologna, no? E una sparata terribile, anche perché era la querelle al dance di allora e soprattutto musicologia, contro i nuovi formalisti, cioè appunto contro i semiologi, ma evidentemente diciamo appunto ogni metodo va bene se usato cum grano salis, cioè bisogna farne un uso ponderato, un uso che sia anche riflesso da chi scrive. E se la persona che scrive è intelligente ed è anche sensibile, perché leggere il testo poetico implica l'intelligere, cioè la comprensione, però implica anche un altro livello, cioè quello di una capacità empatica con il testo, cioè noi dobbiamo entrare nel testo, no? C'è chi invece, diciamo, non faremo nomi, ma ha un'idiosincrasia verso tutto quello che è poetico, perché è considerato un qualcosa di posticcio, di una rêverie, no? un puro sognare che non porta a nulla. Ecco, allora è chiaro che se noi partiamo da questo c'è un a priori, c'è un pregiudizio per cui ci sbarra la strada a una comprensione vera, che è appunto una comprensione empatica che qui troviamo, no? Voi leggete questo volume, che è fra l'altro di gradevole lettura, no? Uno dice, oddio, critica letteraria, santo cielo, qui non capirò nulla, magari uno che non ha il tempo, non ha avuto il tempo per occuparsi di queste cose, perché evidentemente se uno legge, approccia, per usare un francesismo, un testo così, il discorso empatico in qualche modo c'è, ma magari c'è qualche riserva, uno dice, ma qui posso avere dei problemi perché non sono abituato a un certo tipo di linguaggio. Ecco, no, il linguaggio di Silvano De Marchi è un linguaggio comprensibilissimo, questo è da sottoscrivere in pieno ed è da sottolineare anche, lo dico autocriticamente, perché le mie cose spesso non sono così, purtroppo. Ecco, la capacità di immedesimarsi nei testi, no? Di, per esempio, farò solo dei ballons d'essai, no? Delle piccole prove, l'appagante saggezza del vivere, a proposito del poeta Brandisio Andolfi, che è il primo antologizzato qui, no? Oppure, a proposito di Andrea Carraro, parla di misura, di essenzialità, di chiarezza dell'espressione che deriva dai classici, anche qui. Ecco, o nel poeta trentino di formazione, ma di origini alloglotte, Lorenzo Cosso, è sardo, voi sapete che il sardo non è italiano, parla appunto di questi tratti ed altro, la capacità di immedesimarsi in quello che non è solo il bailam culturale, ma è la pluralità di culture cui ci troviamo di fronte. O altri elementi, no? Che parlavo di Jacquerie o Jacquerie, perché chiaramente deriva da Jacquerie, no? Jacquerie, voi sapete, in francese sono le guerre contadine, ecco, quello che era il Bauernkrieg tirolese, Geismar, eccetera, in Francia era la Jacquerie, deriva da Jacques, che è il nome più comune del contadino, il peasant francese, il contadino francese, l'emblema è Jacques, che è, se volete, scarpe grosse, cervello fino, no? Recita un proverbio. Magari non è sempre vero, però insomma, tendenzialmente dovrebbe esserlo. Ora, ecco, per esempio in Jacquerie, De Marchi rivela e rileva come l'autore, che sostanzialmente era un professore di letteratura italiana alla Sapienza, ora è in pensione, abbia prodotto quasi solo testi di critica. Prima parlavo di Luigi Baldacci, anche lì sono pochissimi i frammenti, tra l'altro anche secretati dall'autore stesso, quando era in vita, purtroppo ora non c'è più. Perché non intendeva esporsi, diciamo, nella poiesi diretta, se voglio. E qui invece, ecco, c'è un elemento, io qui riprenderò una frase che è di Allen Ginsberg, il grande poeta della Beat Generation americana, il corpo nella lotta. Cioè, quando si fa poesia, in qualche modo ci si butta anche in un agone che potrebbe essere in qualche modo pericoloso, tra virgolette, no? Uno potrebbe dire, uno studioso come Silvano De Marchi, diciamo, per dirla un po' volgarmente, chi glielo fa fare di scrivere poesie? Invece no, per fortuna, ecco, ci avesse privato della creazione della poiesi, mancherebbe, saremmo orbi letteralmente di qualcosa che invece è assolutamente importante. E qui qualche rilievo più in dettaglio, sperando di non trascendere coi tempi, di non travalicare i tempi, vorrei farlo, perché è molto interessante la poesia di Silvano De Marchi. Fra l'altro segnalo che quest'anno è uscito anche un volume che loro trovano anche là esposto, che si chiama Racconti e aneddoti burleschi. Quindi c'è anche questa derivazione, fra l'altro, che è interessante, perché voi direte, in Italia c'è la tradizione del boccaccio o dello straparola, no? Medievale, però attenzione, c'è una tradizione che è quella germanica, attenzione, non segnatamente tedesca. Tutti dicono Till Eulenspiegel, sì, d'accordo, in tedesco, ma Till Eulenspiegel, perché è olandese, quindi attenzione, mi scuso, ma un attimo di precisione filologica ci vuole nelle cose. E Eulenspiegel va bene, no? Per così presentificarlo, ma la pronuncia è quell'altra. Ecco, io vorrei proprio darvi alcuni testi che poi sentirete molto meglio dagli attori, che qui ringraziamo anticipatamente, l'ha già fatto la dottoressa Trevisan, ma io mi associo, perché Grazia dell'Aquila e Patrizio Zindaco ci danno non un importante contributo, danno in realtà ecco, quello di cui dicevo prima, il corpo, la voce e diciamo sangue e carne, no? Per usare un'espressione molto importante. Sì. E inizierei proprio da Via Monte Napoleone, ecco, queste impressioni, questo fotogrammi si chiama intelligentemente questa sezione, che Silvano ci dà. Via Monte Napoleone è, qui lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, è una delle vie, probabilmente la via più importante da un certo punto di vista commerciale, pubblicitario e altro, è la quintessenza in qualche modo della ricchezza del fare e del handle, no? Del commerciare proprio milanese, Meneghino. In realtà Silvano qui ne scopre significato e significante, si tengono sempre, il famoso tout se tient, no? Tutto si tiene, si vede proprio qui. Via Monte Napoleone, dove due giovani si parlavano con la R moscia e si toccavano con la punta delle dita, e una ragazza squillo passava in minigonna e gli alti tacchi, lasciando una scia di voluttuoso profumo, e un negro dagli occhi lattei si confondeva con la notte nell'ombra viola dei portali. Via Monte Napoleone, così deserta nel suo fasto decaduto, torna ora a vivere nella memoria della lontana giovinezza. Ora, alcune cose da notare. È un pochino il rovescio della medaglia di Via Monte Napoleone, perché la ragazza squillo, i due giovani che parlavano con la R moscia, purtroppo la nostra è una cultura che tabuizza appunto l'essere diversi, no? Io lo dico con grande forza perché qui c'è stata e c'è tuttora un orribile proprio conventio ad excludendum, no? Ora, e poi c'è anche la parola che non è politically correct, cioè a dire un negro, no? Un negro, voi sapete che cos'è, qualche mese fa Vittorio Feltri, che difendeva peraltro i negri di come si chiama la località, Rosarno? Forse, ecco, quel posto, non so, perché non ho contezza del luogo, e però difendeva fra l'altro quello che era successo, e invece l'hanno accusato di razzismo, no? Quando invece, insomma, vabbè, anche negli Stati Uniti bisogna dire colored, no? Bisogna dire colorato, perché se si dice black apriti cielo, ma in realtà adesso non è una presa di posizione, non fraintendete, perché credo di essere assolutamente, l'ingegnere lo sa, di essere insospettabile di razzismo, ma tuttavia ecco, c'è anche appunto il rovescio della medaglia, quando tutto deve essere politicamente corretto, scusate un po', ma anche il lessico rischia di essere un pochino così condizionato. Per esempio qui negro anche metricamente va benissimo. Cos'altro potremmo mettere? Nulla, nulla, no? Non c'è una possibilità, perché nero vuol dire rinunciare evidentemente alla gutturale, no? Che invece ha una funzione importante. E altro, non vorrete mica dirmi che si possa ricorrere a diversamente colorato, queste cose qui, vero? Insomma, non credo che nessuno di noi converga su questo. Ecco, quindi c'è una scelta invece estremamente attenta, per esempio la scelta anche ossimorica, il negro dagli occhi lattei, no? Quindi l'ossimoro proprio presente, no? O neve in città, dove, ecco, qui è veramente l'aspetto malinconico, non tragico, attenzione, ma malinconico del poeta. Quando appunto c'è il candore, la bellezza poetizzante, poetica della neve, e poi invece si levò stridore di catene, di ruspe, di pale ai portoni, la città riprendeva il suo corso. Non vi fu tempo per ammirare tanta bianca sorpresa. E qui è Paul Verlaine, eh? Pleure poète, piangi poeta. Cioè a dire, il poeta sa piangere. E questo, noi viviamo in una società in cui purtroppo il pianto è un pianto da barcone. Io, scusate, qui divento un Savonarola quando vedo il Grande Fratello, non lo guardo mai, per me non esiste, ma queste cose, ecco, questa abiezione cui siamo stati abituati, ecco, non c'è altro da dire, è un qualcosa di abominevole, no? Fra l'altro uno straordinario libro che voi sapete, era una creazione di George Orwell, no? 1984, ma scritto 38 anni prima circa, sì, iniziato sì, circa 40 anni prima, e poi, ecco, che invece è stato stravolto e virato nel suo opposto, santo cielo, no? Riflettiamo un po' su cosa è successo. Oppure la tua povertà, no? Qui veramente anche ci sono echi addirittura romantici, Carlyle, no? Lavora, non disperarti. Quando hai voluto augurare qualche male, nudo di notte al ciglio della strada, la pietà nel cuore ha avuto il sopravvento. Su, curva la schiena, gli strappi, lavora. Per quello citavo Carlyle, appunto, perché c'è questo eco. Ma Non solo, perché c'è evidentemente il richiamo anche a Mallarmé, no? Quella straordinaria immagine, qui abbiamo presente, e mi sono dimenticato di ringraziarlo prima, l'amico e dirigente dell'ASA, Franco Latino, che alla figura del clochard in poesia e anche in prosa ha dedicato anche pagine molto importanti. E qui io ci tengo. Qui invece abbiamo una figura che sta tra il subproletario, il lumpenproletariat, e il proletario invece che è tale nel senso che sa e può lavorare. Poi interno, e anche qui sentiranno, perché le mute stanze, odore di chiuso e un greve silenzio su un irrevocabile passato. Ecco, io a costo di passare per un formalista greve e pedante, vorrei invece proprio insistere su questo aspetto, la capacità poetica e poietica di Silvano, per esempio nella Domenica al Villaggio, ma in tutte le poesie di questa raccolta e in tutte le poesie in realtà che Silvano ha scritto, anche in tutte le raccolte precedenti, cioè di usare l'aggettivo e il sostantivo. In genere c'è parlo di molti, no? C'è la dominanza del sostantivo, o invece c'è un esplodere, diciamo così, di aggettivi un po' incontrollato. Qui no, ogni, ecco, il lime labor, il lavoro di lima, è assolutamente presente in Silvano, nell'opera di De Marchi. La Domenica al Villaggio, tra un festoso rispondersi di campane, lungo il fiume camminano con passo di danza le liete ragazze fresche alla brezza del mattino. Vedete l'anticipazione, liete ragazze, e poi la posposizione, fresche alla brezza del mattino. Qui è evidente che c'è un antecedente, che è tale Messer Giacomo Leopardi, no? E il sabato del villaggio. E qui però, ecco, c'è tutt'altro, no? Perché abbiamo invece, rispetto alla visione assolutamente disforica e sostanzialmente nichilista che è in Leopardi, qui abbiamo una visione che è euforica, che è di un cantare la gioia, anche, no? Sapersi appunto empaticamente, se non sim praticamente identificare con l'altro, no? In questo caso è chiaro il referente. Oppure nei torridi giorni, anche qui è un richiamo veramente importante, appunto della verde età, dove, ecco, per esempio la breve estate, anche qui addirittura è chi che potremmo dire anche della grande stagione che è stato il crepuscolarismo, no? Il crepuscolarismo è stato grandissimo. Pascoli solo in Italia poteva essere bistrattato. Forse è stato francese, scusatemi, io sono notoriamente francofilo, sarebbe stato molto più apprezzato e molto più studiato di quanto non avvenga. Oggi Pascoli viene disprezzato, questo è un grandissimo limite, ma io oso l'inusabile, addirittura Tennessee Williams, non so se qualcuno ha visto qualcosa del grande Williams, no? Ora si dice una cosa da alto borghese del sud degli Stati Uniti. Voi sapete che gli stati del sud erano quelli, guerra di secessione, eccetera, considerati razzisti. In realtà le cose sono notoriamente più complesse. I nordisti non è che fossero i buoni, adesso non vogliamo fare lezioni di storia, ma insomma, erano motivi molto chiari legati all'industrializzazione che soppiantava la cultura rurale, la cultura del latifondo. Per cui poi c'è stata la relativa, poi molto relativa, immissione delle persone di colore. Pensate che fino all'inizio degli anni 60, lo trovate in ogni libro, in moltissimi locali un nero, se volete, non poteva sedersi accanto a un bianco, idem negli autobus, la famosa lotta di Martin Luther King, no? E quindi, insomma, non, cerchiamo di guardare le cose anche con il senso giusto del sogno che qui c'è, però anche, poi la realtà, no? E questo, fra l'altro, è un aspetto che trovate, che percorre tutto il libro. Non è, attenzione, un libro della defeat, della sconfitta, non è assolutamente vero. Qui io ho trovato anche, non dirò gli autori, ma ho trovato delle recensioni dove nel sottotesto sembra che si dica, ma Silvano De Marchi, diciamo, in qualche modo è qualcuno che è rassegnato. No, questo aspetto non c'è, per fortuna, assolutamente. Non c'è questo aspetto di una malinconia, diciamo, che tende a una tristezza da rassegnazione. No, c'è l'elemento della speranza. In questa sede non mi sento di sottolinearlo di tanto, perché poi le convinzioni di ognuno sono diverse, no? Convinzioni anche proprio legate al vissuto. Ma io con Silvano De Marchi ho avuto l'occasione e il piacere di parlare anche di problematiche cosiddette esoteriche, no? Cioè non divulgabili sempre tout court a tutti, diciamo così. Non è un aspetto di elitarismo da chiusura, ma è una considerazione oggettiva, no? A un certo punto non tutto si può dare a tutti, perché talora c'è la possibilità, purtroppo, del fraintendimento, no? Quando si dice, famosa frase evangelica, gettare le perle ai porci, no? Purtroppo viviamo in una società, facevo prima un esempio orribile, secondo me, no? Orribile, orribile visu et dictu, quello lì del GF, dove uno non sa veramente dove si viva, per citare il poeta ancora una volta. E allora lì, ecco, invece l'elemento della speranza, proprio profondamente, no? Legato anche alla catarsi, non solo alla catarsi individuale, è assolutamente presente. Non vorrei ecco, dilungarmi oltre, perché sentiranno la lettura viva, e ecco, tenevo a dire quello di cui ho accennato circa nella parte centrale dell'intervento, cioè i racconti burleschi. C'è anche il De Marchi che sa ridere e soprattutto sa sorridere, e questo è importante anche rispetto a quanto dicevamo, no? L'importanza del saper sorridere in certi momenti, o sapersi andare, lasciarsi andare anche a una risata ove sia opportuno, no? Ecco, questo un po' era la presentazione dei due libri, che dicevo vanno veramente assieme, sono da leggere assieme. Poi le strategie di lettura ognuno sviluppa le sue, non vorrei qui interferire né dare indicazioni che possano essere direttive, però questa convergenza c'è. Voi se voi leggete alcune sezioni del libro, no, l'altro libro teorico, e poi leggete alcune poesie, troverete quanto si diceva, cioè la sinergia e la confluenza, pur se parla di altri autori nel libro. Sì. Grazie. via Monte Napoleone, dalle vetrine scintillanti delle sontuose boutique dell'industriosa Milano. Come per incanto, era vuota quella sera dell'incipiente autunno. Via Monte Napoleone, dove due giovani si parlavano con l'R moscia e si toccavano con la punta delle dita, e una ragazza squillo passava in minigonna e gli alti tacchi, lasciando una scia di voluttuoso profumo. E un negro dagli occhi lattei si confondeva con la notte, nell'ombra viola dei portali. Via Monte Napoleone, così deserta nel suo pasto decaduto, torna ora a vivere nella memoria della lontana giovinezza. Neve in città. Nevicò tutta notte. Al mattino un soffice manto copriva i tetti e le strade, incappucciava le statue, ai giardini gli alberi scuri. Ben presto, nell'ovattato silenzio, si levò stridore di catene, di ruspe, di pali ai portoni. La città riprendeva il suo corso. Non vi fu tempo per ammirare tanta bianca sorpresa. Fu chista. Lo vidi, nudo alla cintola, gettare grandi palate di carbone nel fuoco della caldaia. E ogni volta il fuoco si ravvivava e sprigionava scintille. Fu allora che capì, la faccia tesa e illuminata dalla fiamma, il duro lavoro del proletario. Lo salutai solidalmente, chiamandolo fratello. La tua povertà. Hai bussato a innumerevoli porte. Hai atteso, paziente, i resti dell'umiliazione. Sentisti il brivido che entrò fino nel sangue di chi, sfiorandola, doveva toccare la tua mano. Hai invocato la rivolta totale, irrompente, e il tuo grido soffocato si perse nel frastuono della città. Quando hai voluto augurare qualche male, nudo, di notte, al ciglio della strada, la pietà nel cuore ha avuto il sopravvento. Su, curva la schiena agli strappi, lavora! La tua mano è ancora capace di offrire doni all'opulenza del tuo padrone. E se l'anima è giglio reciso, la mano callosa che stringo è la mano più bella del mondo. Appresso i passi della sera, curvi sui pedali, corrono i ragazzi lombardi e pare che il vento li porti nei lunghi viali di tremuli pioppi. Vedi sostare coppie abbracciate di amanti. Forse è questa la vita, l'esilarante corsa di una giovane gara. La domenica al villaggio, tra un festoso rispondersi di campane, lungo il fiume, camminano con passo di danza le liete ragazze, fresche alla brezza del mattino. In autunno, da ragazzi, si andava alla vendemmia, sotto tralci carichi di uve, dai chicchi dorati scintillanti, o di un blu pallido perlato. Rapidamente si empivano i canestri e se ne assaggiava a sazietà. Poi le gambe e i piedi nudi si pigiavano nei tini i grappoli raccolti. Era un rito la sera bere il nuovo mosto come nettare insieme alle castagne. Rito che ancora si ripete in qualche borgo. Da bambino sottraevo i fiammiferi da casa, quelli che si strusciavano sotto la suola, su un muro o una pietra, e duravano a lungo, resistendo anche al vento. I miei credevano li prendessi per vedere la fiammella. Era invece per accendere di nascosto coi compagni le prime sigarette fatte con foglie secche di castagno. Queste cose hanno ancora eco nel mio cuore. Meriggio. Fa fresco all'ombra dei larici. Insetti smeraldo si aggirano sul tappeto di rossi aghi. Donne sciacquano i panni nel placido ruscello e cantano. Il giorno è alto, nell'aria odore di resina. Poi tutto si ferma, rimane immobile nell'assonnata ora del meriggio. Dove il cuculo chiama dal bosco e scirocco accende profumi, cade sui prati. Cacciare, Delia, potremo i pensieri, gli affanni, scoprire la quiete di un giorno festoso, i canti di miele. Magica sera. Dilegua e si perde il suono della campana di una romita chiesetta. Da questa balza di verde velluto che profuma di bosco, l'anima assorta contempla la cerchia viola dei monti, i colori cangianti del cielo, e una celeste pace la invade. Magica sera. Tenerife. Si spengono le stelle allorché l'alba di perla invade la volta del cielo. Si svegliano le fattorie col mattutino canto del gallo e belano le greggi. Nel chiuso ragliano i miti asinelli. A Tenerife, sulle amare pendici, dove le alture hanno netti profili, più vivo si avverte il passaggio dalla inerte notte alla luce. Visione. E mi sembrò che dalla rupe penduli e rododendri cantassero nel chiarore lunare, e dal lago più sotto rispondessero i gigli pallidi palustri, ondeggiando nel libero gioco dei venti. Al cupo mormorio degli abeti, d'un tratto i gigli divennero ninfe che nude danzavano in circolo. Fu il sogno di un attimo. L'onda batteva lo scoglio, mormorava la foresta severa, e i gigli erano gigli, e i rododendri in alto brillavano sempre nei piccoli corimbi di corallo. Il mio pensiero volò all'alto bosco di aceri, dove scroscia scherzoso un ruscello, dove pullula di nigritelle il terreno. Dai rami appena mossi, a mezzogiorno, piove dolce sopore. Ecco, attorno a un nostalgico fuoco, fatui bagnanti lievi si posero, e come un pesce guizzando fra livide rocce, eco, sorpresa, corse ai loro richiami. Nel cristallo dell'acqua un sordo rumore di reni passò ed un fugace volo di libellule. Fu l'ora del giorno più ebbra. Inconoscibile. Domande. Dio dei miracoli, perché non intervieni in eventi che affliggono l'intera umanità? Perché le blasfeme morti eseguite nel tuo nome? Perché i tuoi proseliti, prendendoti in ostaggio, ti precludono a chi per altre vie ti cerca? Come gesto che non lascia traccia, o parole sussurrate al vento, tu sei assente quando io ti parlo e non odi il lamento lacerante che sale alle tue siderali altezze. Dio degli insondabili silenzi. Post fratris mortem. Andiamo via di qui. Troppo solitario e cupo è questo luogo. Ogni oggetto della muta stanza parla della sua presenza che non è più. Lugubre strascico di solitudine che penetra fino in fondo all'anima. Anche la luna stasera non fa capolino tra la chioma del vecchio ipocastano del fatiscente giardino. Andiamo via di qui. Pietà a mio padre. Uscendo sul sentiero di acace, già buio, mentre l'onda non cessa di avvoltolarsi, dietro la cinta diroccata di pietre, con lo sguardo ti cercherò, e tu mi apparirai, seduto sull'erba, il berretto tra le mani. E invece mi stupisco di non vederti. Per un amico. Vedo tutti morire attorno a me. Cresce la solitudine. Si affollano i ricordi di quanto amai e vidi a palesarne la precarietà nell'arco accidentato della vita. E tu, cui arridevano la gioia e l'amore, giovanilmente ignaro, ti accompagnai al cimitero senza una lacrima, che ero impetrito dentro il cuore. La mia musa non trova ascolto in questa terra dove sono per caso caduto. Chi inizialmente l'ha conosciuta, l'ha subito dimenticata. Forse è il destino di Peter Schlemihl, l'uomo senza ombra, il senza patria, chissà da quale remota contrada venuto, il forestiero. Qui è solitudine. Sulle grigie scogliere si frangono ritmicamente i flutti e sulle verdi pendici ondeggiano le eriche al vento. Canta esile un ruscello che corre verso il mare. Qui è solitudine e infinito spazio. Da questa altura, mentre ammutolito guardo, mi scopro esiguo, sperduto membro della infinita natura. Notte in Cappadocia. Sotto un cielo fiammeggiante di stelle, brillavano di pallida luce i camini di fata a Goreme. Di lontano, gli echi di salmodianti monaci nelle romite chiese rupestri. Tutto era arcano quella notte. Troppo vasto era il cielo di troppe stelle gremito che incombeva su di noi con il suo disarmante mistero. Mi inquieta stasera il pensiero dell'eterno immenso mare, dove noi fragili onde baluginando increspiamo. E forse è quiete questo moto continuo alla deriva sotto il candido volto della luna. Ringrazio il pubblico che ho voluto presenziare, in particolare ringraziamento all'amico Eugen Galasso, che come critico esperto in possesso degli strumenti necessari sa cogliere e valorizzare gli aspetti anche più sfuggenti della creazione poetica. arricchendola di numerosi riferimenti dotti alla cultura europea. Grazie agli attori che hanno il merito di rendere sempre più bello con la loro magica dizione ciò che leggono, e grazie alla nostra direttrice che ci ha ospitato. Io ricordo che abbiamo fatto due relazioni con l'avvocato Gurzaga qui presente, la sala era strapiena. Una riguardava le religioni orientali, l'induismo e il buddismo soprattutto, che si sono avvalse della conoscenza del sanscrito dell'avvocato Gurzaga, e un'altra sul problema della morte, su quanto dicono le religioni e i filosofi a proposito di questo mistero. E ricordo che abbiamo avuto un ottimo riscontro. Per quanto riguarda la mia poesia, io devo dire che la mia generazione, io mi avvicino agli 80, vero, è cresciuta in un clima culturale tutto particolare dal punto di vista letterario. Allora andava di moda l'ermetismo, che seguiva al simbolismo francese di cui conservava molti echi, e la triade famosa era Ungaretti, Montale, Quasimodo. Ungaretti non ebbe il premio Nobel, tanto che quei giorni sui giornali era scritto a Cavaldonato non si guarda in bocca, perché il premio era stato dato a Quasimodo. Poi alcuni anni dopo sentirono il bisogno di darlo a Montale. Però quello che è stato il riformatore del linguaggio poetico italiano, dopo l'esuberanza, la retorica d'annunziana, vero? Quello purtroppo non ha avuto il riconoscimento che meritava. E noi a quei tempi eravamo tutti invaghiti, entusiasti, innamorati di questa poesia, che era una poesia nuova rispetto a quella tradizionale, che rispondeva alle nostre esigenze. Dal punto di vista culturale poi la filosofia era dominante, era l'esistenzialismo anche nella sua espressione narrativa. Eravamo allora i giovani universitari tutti esistenzialisti, perché questo fenomeno culturale esprimeva le nostre esigenze e metteva in rilievo, dopo i fasti dell'idealismo, l'assurdismo, l'assurdità di tanti aspetti dell'esistenza. E quindi gli autori che noi leggevamo erano Camus, no? Il muro, la nausea, era Camus, prima volevo dire Sartre, vero Sartre, e poi Lo straniero di Camus. E a ritroso si andava a Kierkegaard, ritenuto il fondatore dell'esistenzialismo, e a Kafka, sempre attuale, e a Dostoevsky, che per le loro problematiche anticiparono questo grande fenomeno culturale di cui Heidegger è stato il grande maestro, il grande filosofo. E quindi questo era il clima culturale. E penso che dopo di allora non sia più avvenuto un fenomeno culturale così importante, così vivace, sia dal punto di vista letterario, poetico, letterario, che da quello filosofico, come in quei tempi. Non si è verificato più un fenomeno di questo genere. Quindi la nostra generazione ha avuto la fortuna di vivere in questo clima e di serbarne i fremiti. È naturale che questi fermenti si sono poi conservati nel corso della vita. Ecco, un grazie di cuore. Se ci sono delle domande, sono disponibile. Poi qui ho dei testi che do in omaggio e che prego di portarsi via, che sono un po' per tutti i gusti, insomma, testi di poesia, ma testi di narrativa, di saggistica, che mi avanzano, quelli di storia delle religioni, dato che per anni mi sono dedicato a questo problema, vero? Grazie ancora, grazie a tutti.